Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Italia-Israele, misure di sicurezza rafforzate per la partita di calcio di Udine, ma il match si farà a porte aperte, assicura il prefetto. Avviata la procedura di licenziamento di 66 dipendenti di Aquileia Capital Service, senza esito la trattativa sull'Exipo Bank. 130 kg di marijuana sequestrati dalla Guardia di Finanza di Tarvisio al casello autostradale di Ugovizza, arrestati due cittadini polacchi. Al Big Science Business Forum di Trieste le opportunità imprenditoriali in un mercato del valore di quasi 10 miliardi all'anno. Nell'Atlante ambientale ISPRA mappate le aree verdi urbane che l'Europa chiede di ripristinare contro il cambiamento climatico. Saipem, colosso dei servizi per il settore oil, testa a Trieste la nuova generazione di veicoli sottomarini a comando remoto. 12:31 minuti, buongiorno da Lara Zani e Rita Micoli. In apertura di questa edizione del giornale radio, ancora la questione sicurezza che coinvolge luoghi ed eventi legati a Israele anche nella nostra regione, con l'infiammarsi della situazione in Medio Oriente. Questa mattina a Udine, in prefettura, prima riunione del Comitato Ordine e Sicurezza in vista della partita di National League Italia-Israele del 14 ottobre. Intanto in comune si lavora sul patrocinio al match, prima negato, ora di nuovo considerato. Sentiamo gli aggiornamenti. Misure di sicurezza rafforzate sia dentro che fuori dallo stadio per Italia-Israele in programma il 14 ottobre allo Stadio Friuli. Ma come emerso dal Comitato Ordine e Sicurezza in prefettura, per adesso nessuna intenzione di far giocare il match senza spettatori. Domenico Lione, prefetto di Udine. Ci stiamo organizzando per assicurare il dispositivo di prevenzione nella maniera più tranquilla e serena possibile. La prefettura ha chiesto o richiederà che la partita venga disputata a porte chiuse? Assolutamente no, non c'è motivo. Presente alla riunione le autorità di pubblica sicurezza, il comune, ma anche l'Udinese, è collegata da Roma alla Federcalcio. Sicurezza rafforzata tenendo sempre monitorato il contesto internazionale, con i raid di terra di Israele in territorio libanese, ma anche un'eventuale decisione della FIFA, già rinviata due volte, se sospendere o meno Israele dalle competizioni internazionali, come da richiesta della Federcalcio palestinese. Per il 14 ottobre è stato autorizzato un corteo pro-Palestina a Udine dalle 17:30 alle 19:30, da Piazza della Repubblica a Piazza 20 Settembre. Intanto, dopo le polemiche estive legate al mancato patrocinio del Comune alla partita, Palazzo Daronco sta trattando per arrivare a concedere alla fine il sostegno simbolico alla partita, negato a metà luglio. Sull'asse Roma-Udine-Arezzo, dove ha sede Rondine Cittadella della Pace, organizzazione che si impegna per la riduzione dei conflitti armati nel mondo e già attiva a Udine, fervono le trattative per un'iniziativa di pace congiunta. Come e se verrà coinvolta la FIGC è ancora da capire. A fine luglio il presidente Fedriga aveva annunciato il patrocinio regionale al match di Nations League. La partita Italia-Israele era stata fortemente voluta dalla regione, parte di un accordo commerciale con la FIGC che comprendeva anche Italia-Irlanda Under 21 in calendario a Trieste per il giorno successivo a Italia-Israele, un torneo Under 17 sempre a Trieste che si è già disputato a inizio settembre e un match dell'Under 18 a Tarvisio. Udine, Andrea Rinaldi e Lillo Montaltomonella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Aperta la procedura di licenziamento collettivo per 66 dipendenti di Aquileia Capital Service, erede della società italiana di Ipobank. Nella sede di Tavagnacco rimarranno in 10, il rammarico dei sindacati. Rischia la quasi totale scomparsa ciò che era rimasto della società italiana dell'austriaca Ipobank, che raggiunse al suo apice oltre 500 dipendenti e aveva sede a Tavagnacco. Una decina di anni fa la vendita al fondo Bain Capital, lo stesso protagonista della chiusura dell'impianto di Idea Standard a Orcenico. L'ultimo tassello dell'ex Ipobank si sta sgretolando per decisione del proprietario stesso, con il licenziamento di 66 su 76 lavoratori di Aquileia Capital Services, 43 dei quali in Friuli. Chiuderanno gli uffici di Milano e Roma. L'azienda si occupa di recupero e gestione di immobili rilevati a seguito di prestiti non ripagati. Venerdì si è chiusa senza intesa la trattativa per la fase prevista dal contratto collettivo nazionale avviata ad agosto. Ora si apre la procedura di legge, 45 giorni con esito scontato, perché il cliente, che coincide con il socio, ha deciso di affidare a un altro soggetto il portafoglio in capo da Aquileia Capital Services. I sindacati Fabi, First CISL e Fisac CISL hanno espresso profondo rammarico per la vicenda. Ora la trattativa sarà finalizzata a garantire le migliori condizioni ai dipendenti in uscita. Alla vertenza partecipa la Regione. Si tratta della seconda ondata dei licenziamenti collettivi in ACS dopo i 45 dello scorso anno, mentre un paio di anni fa era toccata una simile sorte a un'altra erede di Hypo Bank, Julia Portfolio Solutions, con l'esubero di decine di lavoratori. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Cronaca, i finanzieri della compagnia di Tarvisi hanno sequestrato quasi 130 kg di marijuana allo stupefacente a bordo di un furgone a targa ceca fermato per un controllo al casello autostradale di Ugovizza. Il carico era imbustato in 122 confezioni sottovuoto per evitare che fosse individuato dalle unità cinofile, impacchettato in colli anonimi, era accompagnato da documenti di trasporto falsi. I militari insospettiti per imballaggio e anche per l'odore che proveniva dall'abitacolo hanno fatto intervenire il cane Crizia, a cui non è sfuggita la natura del carico. La marijuana sul mercato avrebbe potuto fruttare fino a 1,5 milioni di euro. L'autista, un cittadino polacco accompagnato da una donna, è stato arrestato. Le indagini hanno ricostruito il tragitto della marijuana partita dalla Repubblica Ceca destinata in Francia con una tappa programmata in Italia. L'operazione si inserisce nel dispositivo di controlli contro il traffico internazionale di droga condotto dal Comando Provinciale delle Fiamme Gialle di Udine. Violazioni delle norme antiriciclaggio scoperte dalla Guardia di Finanza di Trieste durante i controlli su professionisti operanti nel capoluogo giuliano. In un primo intervento i militari, nel corso di un'ispezione nei confronti di un commercialista, hanno riscontrato la violazione agli obblighi riguardanti l'adeguata verifica della clientela, che prevedono misure di identificazione anche in base a specifici indici di rischio. L'analisi delle parcelle e dei fascicoli di ciascun cliente ha consentito di evidenziare la mancanza di alcuni documenti relativi al cosiddetto presidio antiriciclaggio. Le violazioni comportano una sanzione che può arrivare fino a 50.000 euro. Ad un altro commercialista è stata contestata la mancata segnalazione di operazioni sospette da parte di un cliente cui era seguito esclusivamente il rifiuto della prosecuzione del rapporto. Per il professionista è scattata una sanzione pari nel massimo a 3.000 euro. Infine, in un terzo controllo nei confronti di un notaio, i finanzieri hanno riscontrato entrambe le violazioni dei due casi precedenti. Il professionista aveva verificato il profilo di un cliente solo sulla base di ricerche web e aveva omesso di segnalarne una anomala operatività finanziaria sia in contanti che attraverso canali bancari. Procedevano secondo programma i lavori del nuovo asilo nido di Torre in via Musila a Pordenone. L'edificio sarà destinato a 60 bambini per rispondere alla crescente richiesta di genitori e famiglie e si sviluppa su 860 metri quadrati in un unico piano. Ma nei giorni scorsi l'impresa che sta eseguendo i lavori ha segnalato al comune di Pordenone che la copertura esterna del tetto dell'edificio ha subito dei danni causati presumibilmente da attrezzi acuminati usati sui pannelli in lamiera. L'impresa ha sporto denuncia. Atto di puro vandalismo, lo ha definito il vice sindaco Alberto Parigi. E continuano finora senza esito le ricerche cominciate questa notte nella zona del Marina di Monfalcone per un uomo di circa 70 anni. L'allarme è stato dato dalla moglie, cui l'uomo aveva detto che si sarebbe recato ad effettuare alcuni lavori di manutenzione sull'imbarcazione e che poi non lo ha visto rientrare. Impegnati nelle ricerche i vigili del fuoco e la capitaneria. A Trieste ha preso il via la terza edizione del Big Science Business Forum, che mette a confronto il mondo scienza e le imprese ad alto contenuto tecnologico, con le prospettive di studio e di impiego per le future generazioni. Al Big Science Business Forum le industrie incontrano le principali organizzazioni scientifiche europee e le infrastrutture di ricerca per discutere delle opportunità imprenditoriali in un mercato del valore di quasi 10 miliardi di euro l'anno. Presenti in tre padiglioni del Porto Vecchio di Trieste il CERN, l'Agenzia Spaziale Europea, Enea, ESO per citarne solo alcune, che hanno come obiettivo la creazione di un grande mercato europeo della scienza. Un'opportunità per le imprese e le organizzazioni europee di essere informate sui bandi e i concorsi gestiti direttamente dalle Big Science Organizations internazionali. Il direttore di BSBF, Paolo Acunzo. Siamo il paese nel gruppo di test insieme alla Francia, Spagna e Germania, per cui questo è anche un riconoscimento della alta qualità delle imprese italiane in questo settore. Nonostante questo, tanti ricercatori italiani vanno all'estero a cercare opportunità di ricerca. Molti dei ricercatori, anche dei rappresentanti delle Big Science Organization che sono qui presenti, sono italiani, per cui rappresentano l'Europa, cioè le infrastrutture europee, ma sono stessi italiani. Big Science Business Forum è un evento che la regione ha fortemente voluto ospitare e sarà inaugurato ufficialmente nel pomeriggio, mentre la giornata di oggi è dedicata ai satellite meetings, dove esperti stanno affrontando temi come l'idrogeno o i nuovi acceleratori al plasma e anche come ispirare i giovani a diventare la futura generazione di scienziati. Alessia Rosolin, assessora alla ricerca della regione Friuli Venezia Giulia. Oltre 1.800 giovani durante queste giornate potranno procedere a incrocio tra domanda e offerta con le grandi organizzazioni scientifiche e con le imprese a livello internazionale che cercano la cosa più importante, ossia quel capitale umano ad alta innovazione. Trieste, Eva Ciucci, GR Friuli Venezia Giulia. È online l'Atlante ambientale 2024 dell'ISPRA. La novità quest'anno è la mappatura delle aree verdi urbane che una legge dell'Europa ora chiede di ripristinare perché risorse fondamentali per l'adattamento ai cambiamenti climatici e che anche nelle città della regione risultano in diminuzione. Città sempre meno verdi, secondo la fotografia scattata dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, la mappatura delle aree verdi e con alberi di tutti i comuni d'Italia, novità dell'Atlante Ambientale Nazionale 2024, elaborato da ISPRA e da oggi consultabile sul sito dell'ente, attesta l'inesorabile graduale arretramento del verde sul cemento anche nei principali centri urbani della regione, una tendenza che l'Unione Europea ora punta a invertire con la nuova normativa sul ripristino della natura che obbliga da qui ai prossimi 6 anni i comuni più urbanizzati a non diminuire aree verdi e alberi già esistenti e a incrementarli progressivamente dal 2031 in avanti, stando alle mappe dell'ISPRA, una partita che per il Friuli Venezia Giulia riguarda almeno 59 dei suoi 215 comuni, prendendo a riferimento solo quelli capoluogo in quanto a copertura arborea, con quasi 600 ettari Trieste risulta in testa alla classifica, anche se gli alberi occupano solo il 20% della sua estensione urbana, segue Udine con 187 ettari di alberi, pari ad appena il 7% del suolo, di poco inferiore Pordenone, con 163 ettari, che occupano l'11% di superficie urbana complessiva, e Gorizia, che con 119 ettari ne ha invece il 14%. Non va meglio per le aree verdi, sia pubbliche che private. Trieste risulta ancora al primo posto, con oltre 1.100 ettari, seguita da Udine a poco più di 900, Pordenone a circa 500 e Gorizia a 300 ettari. Anche in questo caso basse le percentuali di presenza sul suolo urbano, che oscillano tutte tra il 35 e il 37%. Il curatore dell'Atlante Ambientale Nazionale, dirigente ISPRA, Michele Munafò, spiega che si tratta di un quadro dettagliato che servirà a supportare la politica negli interventi richiesti dal nuovo regolamento europeo oggi in vigore, un nuovo contesto nel quale le aree verdi urbane sono riconosciute fondamentali per la salute umana e l'adattamento delle città ai cambiamenti climatici, con la loro capacità di trattenere l'acqua, a cominciare dall'importante funzione di prevenzione delle inondazioni. Lara Boccalonti, GR Friuli Venezia Giulia. L'innovazione sottomarina passa per Trieste. La nuova generazione di veicoli a comando remoto viene messa a punto nel magazzino 23 del Porto Vecchio, base logistica di Saipem, il colosso dei servizi per il mondo petrolifero. In caso di malfunzionamenti delle condotte petrolifere subacquee, ma anche di operazioni di salvataggio di equipaggi dai sottomarini, vengono usati i ROV, veicoli a comando remoto. Leader nello sviluppo di questa tecnologia è la Sonsup, società controllata da Saipem. I test e la manutenzione di questi esploratori meccanici delle profondità marine vengono svolti a Trieste, anche centro di formazione dei piloti che operano da remoto, tra questi anche personale della Marina Militare. Unico al mondo invece è il Hydron V, veicolo puramente elettrico progettato per incorporare funzioni di intelligenza artificiale per operazioni avanzate. Ne abbiamo parlato con Matteo Marchiori, responsabile dell'area robotica a Sonsup. L'oggetto, grazie alla capacità di percepire e di leggere l'ambiente sottomarino, sa muoversi e riconoscere oggetti, eseguire missioni che vengono precaricate, perciò quello che si fa è caricare a bordo del veicolo un obiettivo, tipicamente andare da un punto ad un altro o di ispezionare una struttura, ma poi lo svolgimento e la definizione della rotta o delle manovre da fare viene fatta in totale autonomia. Questo rover è in fase di test e verrà presto spedito in Norvegia. Certo, sono stati 5 anni molto intensi dove tutto il nostro pool di specialisti, di ingegneri ha dato il massimo. Evidentemente avevamo una dote che risale agli anni 80 di competenza e tecnologia, però abbiamo dovuto fare molti passi in avanti. Qui a Trieste siamo nelle ultime fasi di sperimentazione di collaudo. Il luogo di destino è la Norvegia, dove andrà ad intervenire in un campo offshore. Andrea Marušić, TGR Friuli Venezia Giulia. E adesso in Consiglio regionale, dove è iniziata la settimana di lavori. Sentiamo. La Regione come capogruppo di una holding finanziaria che comprende una 60 di soggetti controllati o partecipati a diverso titolo. Una holding tenuta ogni anno a redigere un bilancio consuntivo che deve essere approvato con una delibera del Consiglio regionale. Ed è questo complesso documento che ha occupato la prima parte della seduta dell'Aula, convocata di diritto come prevede lo Statuto il 1 ottobre. Il bilancio approvato a maggioranza riporta per il 2023 un risultato economico di esercizio positivo per 1.177 milioni, legato, aveva spiegato l'assessore Azzilli già in sede di commissione, al positivo andamento delle entrate da tributi. Un dato interpretato oggi come un accantonamento di risorse pubbliche che arrivano direttamente dalle tasche dei cittadini e che vengono dunque utilizzate in modo infruttuoso dal consigliere Onsel di Open Sinistra FVG, che ha anche criticato la natura stessa del documento fissata dalla legge nazionale, che esclude da questo bilancio consolidato le aziende sanitarie che viceversa sono la maggiore fonte di spesa. A difendere l'utilità di questo bilancio come strumento di controllo e la correttezza delle scelte amministrative della Giunta Federica e della sua maggioranza, Basso di Fratelli d'Italia e Cabibbo di Forza Italia. Altro rilievo arrivato dalla minoranza, in particolare da Carli del PD, quello sulla perdita di esercizio delle partecipate, che nel 2023 è arrivato oltre i 66 milioni. La responsabile delle finanze della Giunta lo ha motivato anche in questa sede con i riflessi contabili di natura esclusivamente tecnica del passaggio della gestione autostradale da Autovie Venete ad Autostrade Alto Adriatico, senza effetti sul bilancio complessivo della holding regione. Carli, nel corso del dibattito, ha chiesto che l'Aula e le commissioni vengano coinvolte in futuro in modo più approfondito nella redazione del documento contabile, anche con audizione degli amministratori delle società controllate. Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. Da oggi Enrico Sbriglia è il nuovo garante regionale per i diritti della persona, già presidente dell'Osservatorio regionale antimafia. Subentra Paolo Pittaro, che ha ricoperto lo stesso incarico nell'ultimo quinquennio. E ora uno sguardo al tempo, cielo da nuvolosa variabile su pianura e costa, coperto in montagna. Queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 18 gradi e mare calmo con temperatura di 21 gradi, a Gorizia e Udine 16 gradi, a Pordenone 15, Tolmezzo 13 gradi e 5 decimi, Tarvisio e Forni di Sopra 11 gradi e 5 decimi, Biancavallo 9 gradi e 5 decimi, Sappada 9 gradi, sul Monte Zoncolan 5 gradi, sul Monte Lussari 7 gradi e mezzo, a Lignano 16 gradi, a Grado 16 gradi e mezzo, la temperatura del mare nelle due località è di 19 gradi. Le previsioni dell'ARPA: questo pomeriggio cielo in prevalenza nuvoloso coperto, dalla sera inizierà a piovere nel tarvisiano, tempo migliore con cielo variabile, domani coperto con piogge da abbondanti e intense sulle zone occidentali e sulle Alpi, intense e temporalesche sul resto della regione, specie sulle zone di confine dal Carso alle Prealpi Giulie, è possibile qualche temporale forte con piogge localmente molto intense sulla costa, soffierà vento da sud o di libeccio da moderato a sostenuto. In serata entrerà bora moderata, possibile mareggiata e acqua alta. Parliamo di salute e prevenzione. In occasione del mese tradizionalmente dedicato alla sensibilizzazione sulla patologia oncologica mammaria, il Comitato di Pordenone dell'Associazione Nazionale Donne Operate al Seno lancia la campagna Ottobre Rosa. Nel frattempo un progetto Andos è stato selezionato tra i due vincitori della 13ª edizione dei bandi di Gilead Sciences Fellowship Program e Community Award Program. Il progetto selezionato è curato da Andos Pordenone, la cui presidente Marisa Zanella ci ha parlato della campagna e del progetto. Si tratta di un progetto in collaborazione con il CRO di Aviano, specificatamente con il dottor Mattia Garutti e con la docente di scienze motorie Desiree Davide Gregori, che è una nostra docente da diversi anni, con la quale abbiamo fatto il progetto Medicina e Sport. È un progetto dedicato soprattutto alle donne operate a seno, che aiuta a contrastare tutte quelle dolori che vengono quando la persona è in terapia oncologica. A questo si aggiungono anche delle raccomandazioni con gli esperti in dietologia. Deve imparare a mangiare correttamente nel momento della terapia. Ed è stato appunto presentato con la loro collaborazione, siamo venuti a conoscenza del bando della Giles, è stato presentato e abbiamo avuto la fortuna di essere riconosciuti. E oggi poi parte la campagna di screening. Chi e come può aderire? Sì. Possono aderire le giovani donne dai 40 ai 45 anni che non rientrano nello screening regionale, che non hanno mai fatto una mammografia preventiva, e diamo loro la possibilità di avere almeno la base di partenza, perché abbiamo visto che purtroppo la malattia ha abbassato l'età, e per queste persone diamo appunto questa opportunità di entrare a fare una visita mammografica di base. Ci sono ancora dei posti disponibili? Come ci si prenota? Sì, ci sono ancora dei posti disponibili. Le persone interessate che rientrano in questo range di età possono telefonare al nostro numero 331 98 098 29. Dalle 10 alle 11 oppure dalle 14 alle 16 dal lunedì al venerdì. Il comune di Monfalcone aderisce alla campagna Nastro Rosa AERC dedicata alla sensibilizzazione sulla prevenzione e cura del tumore al seno. Le farmacie comunali di Monfalcone sosterranno la raccolta fondi destinata alla ricerca oncologica e promuoveranno la prevenzione attraverso la distribuzione di materiale informativo ai cittadini. I clienti potranno quindi sostenere la ricerca effettuando una donazione minima di 2 euro per ogni spilletta ricevuta. I farmacisti inoltre distribuiranno materiale informativo sul tumore al seno. Un progetto di ricerca ideato da donne per studiare il corpo delle donne, soprattutto per trovare terapie mirate contro le malattie più diffuse e letali per il genere femminile, le cardiometaboliche. Il Burlo Garofalo di Trieste cerca 200 volontarie. Si parla sempre più spesso di medicina di genere. Facciamo un esempio: le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte tra le donne, secondo i dati Istat, ma le terapie, frutto di studi sugli uomini, non tengono conto della profonda diversità biologica del corpo femminile. Servono dunque più ricerche scientifiche che studino nel profondo le malattie più comuni nelle donne, come quelle metaboliche e cardiache, di cui ancora non conosciamo davvero il meccanismo. Per questo dal 2021 l'ospedale Burlo Garofalo di Trieste porta avanti il progetto di ricerca Women for Health. Servono però 200 donne che si offrano volontarie per partecipare alla ricerca. La professoressa Giorgia Girotto, genetista al Burlo Garofalo. Noi cerchiamo donne tra i 18 e i 45 anni in buona salute, che non siano sotto terapie ormonali o farmacologiche e quindi che non soffrano neanche di patologie croniche, e che abbiano voglia di dedicare un po' di tempo, sono pochi minuti al giorno, a questo progetto in cui studieremo il microbioma intestinale, vaginale, il loro DNA, e dovranno compilare un diario alimentare, un diario dell'attività sportiva e fisica, con lo scopo appunto di identificare dei marcatori che possono in qualche modo essere tracciati poi nello studio di queste patologie. Un progetto unico al mondo destinato a fare da modello per future ricerche sulla medicina di genere. Avere comunque una coorte di volontarie sane, come quella che stiamo cercando di costituire noi, sarà fondamentale anche per studiare ancora più approfonditamente certe patologie tipiche della donna, se pensiamo a endometriosi, tumori della mammella, dell'ovaio, quant'altro, e quindi dobbiamo sempre più pensare che la prevalenza di genere verso certe patologie potrà essere approfondita solo suddividendo maschi e femmine in coorti separate, quindi solo dedicando degli studi ad hoc. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. E viene proposto anche in Carnia il percorso di formazione dedicato in particolar modo ai caregiver e a tutta la cittadinanza per imparare a prendersi cura di una persona anziana con fragilità, dagli aspetti burocratici a quelli relazionali. È l'obiettivo di Si fa rete, progetto finanziato dalla Regione con risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e in collaborazione con partner del terzo settore. L'appuntamento di oggi a Forni di Sotto verterà sul tema le vie della cura con la neuropsicologa Rosanna Palmeri e la consulente sociale e fiscale Chiara Dean alle 17:30 al centro diurno anziani. E in chiusura una notizia di poco fa: è stato ritrovato il corpo senza vita dell'uomo che era scomparso la notte scorsa nel canale Lisert a Monfalcone. A individuare la salma poco fa i sommozzatori del nucleo soccorso subacqueo acquatico regionale del comando dei vigili del fuoco di Trieste. L'allarme era scattato ieri, l'uomo non aveva fatto ritorno a casa dopo aver detto alla moglie che sarebbe andato a fare alcuni lavori di manutenzione sulla sua imbarcazione. Alle ricerche hanno partecipato anche gli uomini della Guardia Costiera. In corso le operazioni di recupero del corpo. Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio Regionale. Alla parte tecnica Paolo Cassano e Mauro Ciccarelli, in redazione ha collaborato Daniela Sossi, dalla Razzani e Rita Micoli. Grazie per l'ascolto, l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Friuli Venezia Giulia.